Voglio, mi raccomando, tutto in coppa a Radio Wombat, allora un caffè, tutti i mercoledì. Benvenute, benvenuti a Frittole per una nuova scoppiettante puntata in compagnia di Radio del... Contagno. Parentesi Radio Contagio numero 95. Benvenuti, siamo quasi a 100. Oh sì, ma infatti qualche giorno fa ragionavo con Reverendo, cioè dobbiamo fare qualcosa di special per la puntata numero 100. Ah sì sì, sicuramente organizzeremo delle sorprese. E si poteva fare anche una sorta di conto alla rovescia, tipo Dylan Dog, no? 10, che... 9, che ha fatto uscire le cose speciali, no? Sì, sì. Boh, vabbè. Comunque, tantissime sorprese per la puntata numero 100, che al momento sono sorprese anche per noi, ma presto saranno rivelate. Intanto siamo qui con il nostro consueto orario ritardato, che poi oggi abbiamo sforato anche un po' troppo, perché si sa, insomma, la primavera nel contado e nelle campagne limitrofe porta molto lavoro a chi è più o meno contadino e comunque chi si cimenta in lavori agricoli. Sì, poi abbiamo sempre i nostri problemini tecnici all'ultimo minuto, chiaramente, quindi... E poi siamo dei pigroni, perché... siamo dei pigroni, diciamolo una buona volta. Comunque, ora ci siamo, ricordiamo subitissimo i nostri contatti, potete scriverci via mail per aiutarci, insomma, a mandare avanti la puntata a radiocontado@insiberia.net. E poi niente, potete ascoltare Radio Wombat, ormai lo sapete bene, ma continuiamo a ripeterlo sempre: potete ascoltare tutte le fantastiche trasmissioni di Wombat sulle frequenze del 13:59 AM, sulle onde medie nella zona di Firenze Nord, Firenze Centro, eccetera, eccetera. E poi seguire tutte le trasmissioni e le dirette e i podcast andando su radiowombat.net. Yes. Detto questo, che sì, puntata abbiamo oggi? Abbiamo una puntata bella ricca, come tutte le puntate. Amo questo programma perché i suoi contenuti sono autogeneranti. E per cui faremo un aggiornamento dai mercati, come abbiamo fatto nelle ultime puntate, per cosa succede in Piazza Tasso, cosa succede in Pianta Sieve. Poi avremo un collegamento con la nostra fantastica, favolosa Gineprina. Poi leggeremo cose che ci piacciono, cose che ci interessano. Continueremo a leggere cose come abbiamo fatto negli ultimi mesi da Nunatak, rivista di storie, culture, lotte della montagna. Poi abbiamo le letture ad alta voce, ormai appuntamento fisso di questa terza stagione, ma no, anche nella seconda stagione penso che le facevamo, non mi ricordo, ma andate a vedere su wombat.net, ci sono i podcast, smentitemi casomai. Comunque continua la lettura del Rosso, La forza dei forti, di London, e poi tante altre piccole cose. Va bene, allora dai. State con noi. State con noi, mandiamo subito un pezzettino spumeggiante per partire con la giusta energia e a tra poco. Vai. Because he always got the right plan. Sam is my best friend. Difendiamo i mercati contadini, lottiamo per il nostro territorio. Siamo le contadine e i contadini della comunità di resistenza contadina Jérôme Larronce. Da ormai 3 anni abbiamo costruito, insieme al quartiere di San Frediano, un bellissimo mercato contadino ogni venerdì in Piazza Tasso. Da ormai 3 anni un gruppo sempre più numeroso di agricoltori e cittadini ha deciso di battersi per sostenere un modello di agricoltura e di vita in netto contrasto con le logiche predatorie dell'economia e della politica. Senza l'aiuto dei sindacati di categoria né delle istituzioni, abbiamo auto-organizzato l'accesso al cibo contadino per la città e garantito alla popolazione locale un sistema di completa trasparenza della filiera agricola. Questo mercato inoltre è diventato molto di più di un semplice momento di scambio merce denaro, ma punto di riferimento in un panorama sociale schiacciato dalla pandemia. Oggi il mercato è in pericolo. Non abbiamo mai nascosto durante il nostro percorso collettivo che la strada verso la transizione ecologica passa anche dalla liberazione del ruolo di imprenditore agricolo e dal riconoscimento delle piccole realtà contadine che non possono essere in ogni modo assimilate alle imprese dell'agricoltura chimica e industriale. A questo proposito, nelle ultime edizioni del nostro mercato settimanale si sono susseguiti richiami e controlli da parte degli agenti della Polizia Municipale a Nona nel tentativo di riscontrare irregolarità nei banchi dei produttori e delle produttrici. Chiediamo a tutte e tutti i sostenitori, coproduttori, amiche, amici del mercato, le associazioni e tutti i cittadini di aiutarci a difendere questo spazio liberato per il quartiere e per la città. Vi chiediamo di presidiare insieme a noi la piazza per i prossimi venerdì e di supportare la nostra lotta per il riconoscimento delle comunità contadine. Quindi dalle ore 16, aggiornamenti, microfono aperto e sostegno al mercato in Piazza Tasso ogni venerdì. E questo qua è il appunto è il comunicato che è stato recentemente appunto tirato fuori dal gruppo della comunità di resistenza contadina Jérôme Larronce, che anche insomma siamo noi, facciamo anche Radio Contado tra le altre cose. Siamo un po' l'emanazione, siamo l'emanazione radiofonica della comunità. E questo sia un po' il comunicato letto splendidamente da Beppi, come tutto ciò che legge. Che è stato girato venerdì scorso in piazza, in quanto, come avete capito bene, c'è bisogno di riunirsi ancora una volta, di far rete, di solidarizzare insieme gli uni con gli altri per fare in modo che esperienze come questa e come tante altre possano andare avanti in modo autogestito, strappando spazi alla città vetrina. Sì, il mercato di Piazza Tasso continua ad andare avanti, però rischia, diciamo, costantemente di essere un po' messo sotto attacco dai vari provvedimenti che di volta in volta vengono presi, quindi per ora resiste, anzi si afferma sempre di più. Il quartiere è veramente legato ormai al nostro mercato, però c'è bisogno di attenzione costante per... Certo, non siamo nella condizione in cui ci siamo trovati la scorsa primavera, quando, insomma, se vi ricordate, il mercato fu proprio sospeso e spostato in Piazza del Carmine, in quanto ci fu la chiusura dei giardini. Insomma, la situazione è un po' diversa, però ecco, si è un po' spostata su un altro piano, cioè comunque appunto venerdì scorso c'è stato questo giro di guardie con fare più o meno intimidatorio e quindi insomma bisogna sempre mantenere la guardia alta e... Eh sì, infatti, sì, certamente, ma infatti però comunque il quartiere Sanfrediano ha anche risposto venerdì scorso, i birri non si sono più ripresentati, i temibilissimi birri della polizia annonaria che sono praticamente quelli che fanno le multe e conoscono poi a mena dito, non sono i vigili urbani, insomma, tutti i regolamenti per il commercio sul suolo pubblico. Come tutti noi di GCC, noi rivendichiamo fortemente la presenza di produttori, appunto, che hanno produzioni veramente genuine, garantite dal sistema della garanzia partecipata, non però dai sistemi della garanzia, delle garanzie e delle tutele, diciamo a norma di legge, quelle che vorrebbero che rispettassero. La battaglia contro le norme che rendono impossibile, difficile, che sono norme il lavoro per i piccoli produttori contadini, sono norme infatti ritagliate per le grandi aziende, e è un punto cardine del discorso della comunità di resistenza contadina Jérôme Larance, così come quello di Gianino Clandestino in Italia, ma in tutto il mondo, insomma, basti pensare a Ors Norm o alla Confederation Paysanne in Belgio, in Francia, insomma, ma solo per citarne i primi che mi vengono in mente. E continueremo a portare avanti questa battaglia, rifiutiamo anche i produttori cosiddetti illegali continuano a venire al mercato, forti del fatto che sanno che tutti quanti i produttori partecipanti al mercato sapranno rispondere con la solidarietà in maniera unitaria, e se dovessero arrivare multe, se dovessero arrivare intimidazioni, se dovesse succedere come è successo 2 venerdì fa, quando anche hanno fatto chiudere un banco, il banco del nostro compagno Leonardo, che è un artigiano del legno che fa oggetti d'uso, che è stato costretto a chiudere dalla polizia annonaria, insomma, che non è stato per niente simpatico, ecco. Sì, e poi la condizione in cui ci troviamo di appunto emergenza sanitaria fa sì che le pratiche repressive siano ancora siano accettate, diciamo, o comunque siano utilizzate dalle amministrazioni in modo molto più fluido di quanto poteva esserlo prima, e quindi adesso su Firenze c'è questa nuova ordinanza anti-alcol, dalle 16, antimovida. Sì, io mi immaginavo stamattina proprio Nardella nel suo palazzo vecchio che si sfregava le mani, che finalmente può fare tutte quelle ordinanze antimovida che ogni anno prova a fare nel modo sempre peggiore, e adesso finalmente dalle 16 vietare la somministrazione, la vendita di alcolici, per lui sarà stato bellissimo, no? Con la scusa che gli assembramenti sono i focolai con cui si diffonde questo malaccio. Sì, c'è e lascia passare Covid per far passare tutte queste restrizioni, è un po'... vabbè, sì, no, al di là... È diventato, noi ne abbiamo parlato anche altre volte, non vogliamo adesso entrare in argomento, ma sì, è diventato un po' così la carta vincente per applicare ogni tipo di ordinanza repressiva. Sì, e sappiate quindi che nei venerdì, non, dalle 16 in poi, non troverete più alcolici sui nostri banchi. Comunque, cioè, queste restrizioni qua diventano sempre più odiose. Poi, cioè, non se ne capisce bene la causa, cioè non se ne capisce bene lo scopo, che altro. Vabbè, mandaci un altro pezzo, Doctor, va, per tirarci sul morale. Vabbò, va, rimaniamo sempre in tema danzereccio e fancheggiante. Si asciuga e Anche Papa Francesco sostiene il mercato di Piazza Tasso, in particolare Giovanni e il suo ottimo vino naturale. Ah, senza vino non c'è festa. Senza vino non c'è festa. Per restare in tema mercati, no? E somministrazione di alcolici. Lo dice pure il Papa. Allora, in questi giorni volevamo spendere due parole su ricordare due persone che sono state uccise brutalmente e di cui l'anniversario della morte cade proprio in questi giorni. Una di queste è Dax, il 16 marzo, cioè ieri, ricorre l'anniversario del brutale assassinio avvenuto nel 2003 ad opera di tre fascisti infami una notte a Milano. Sì, un fatto che poi ha avuto purtroppo altre tristissime conseguenze, oltre alla morte, appunto, il coltellato del nostro Dax, perché poi ci furono. Dax venne portato all'ospedale San Paolo. I compagni decisero di raggiungerlo. Ma là all'ospedale proprio si troveranno davanti uno schieramento ingentissimo di polizia, di carabinieri che li caricheranno. Ci saranno dei momenti veramente in cui le forze di polizia daranno il peggio di quello che sanno dare, una caccia all'uomo anche dentro all'ospedale con mazze da baseball, insomma delle cose orribili. Polizia accuserà la gente a corsa per portare la propria vicinanza e la propria solidarietà al loro compagno morente, Dax. La polizia accuserà questi compagni di volerne trafugare la salma. E poi ci saranno anche processi contro le persone accorse al San Paolo. Saranno stati 20 mesi di reclusione, 130.000 euro di multa si sono presi due compagni. Le iniziative quest'anno sono le iniziative di ricordo in presenza ai cortei che vengono fatti tutti gli anni nella città di Milano, eccetera, sono stati sospesi, ma anche in altre città, insomma, causa appunto pandemia e restrizioni. E quindi ci piace ricordarlo qui in radio, come possiamo farlo e come hanno fatto anche altre radio. Vi consiglio su questo di andarvi ad ascoltare su Radio Onda d'Urto, speciale di quest'anno. E quindi poi anche un altro. Scusa Beppi, mi intrometto. Sì, no, infatti, andando invece indietro di altri tre giorni, quindi arrivando al 14 marzo, invece arriviamo a un altro triste anniversario, l'assassinio di Mariel Franco a Rio de Janeiro. Il 14 marzo del 2018. E niente, ricordando brevemente la figura la persona di Mariel Franco, è stata un'attivista sempre esposta, sempre in prima linea per i diritti delle comunità LGBTQ, e identificandosi sempre come donna bisessuale, ha lottato sempre per i diritti degli ultimi, è stata a portare avanti le lotte nelle favelas brasiliane e era stata anche era anche diventata era stata eletta a Rio de Janeiro nel consiglio, era stata eletta consigliera nella Camera Municipale di Rio de Janeiro, e la cosa le aveva permesso di fare in modo che le sue battaglie contro il razzismo della società brasiliana e per i poveri e per le persone discriminate per il genere e per appunto per le condizioni economiche avessero un eco molto più grande. E prima del suo assassinio, infatti, stava lavorando nelle favelas e stava denunciando, era impegnata in indagini sugli omicidi nelle favelas da parte della polizia, e era impegnata in questo. E quando appunto il 14 marzo del 2018 fu assassinata da due sicari. Sì, questo omicidio, questo assassinio non ha ancora un mandante, non si sa ancora. Dopo 3 anni non c'è stata ancora risposta ufficiale alla morte di Marielle e del suo autista, che sono stati uccisi appunto la notte del 14 marzo di 3 anni fa. Esatto, non è stato, le indagini non hanno portato a un niente di che, però diciamo sulla scia di questo assassinio c'è stato un movimento fortissimo in Brasile che è partito e che è diventato subito un movimento di massa e ha fatto sì che Marielle Franco diventasse un vero e proprio simbolo e una guida per tutti gli oppressi e non solo in Brasile, ecco, la sua figura è ricordata in tutto il mondo. Sì, ero 2 anni fa, ero al corteo dell'8 marzo a Rio de Janeiro, proprio quindi a poco meno di un anno dalla morte di Marielle, e effettivamente era fortissima la sua presenza in quel corteo. Va bene, chiudiamo qui la parentesi triste, questa triste parentesi, e io direi mandiamo un altro po' di musichetta allegra allegrissima, e poi si prosegue così in scioltezza in questo mercoledì 17 marzo. De la pared, pero yo cuelgo de una palmera que en la playa se sustenta de la espuma y de la marea. Tú mueves las aguas de mi borrachera, yo me agarro al viento para que vaya más lento solo por ti. Las redes de la madrugada, luz de un cigarro, humo que vuela, yo caigo en tus redes y no puedo escapar. Soy pescadito en la noche negra, tú mueves el agua de mi borrachera, yo me agarro al viento pa' que vaya más lento solo por ti. Solo, solito la luna llena de tus ojos, soy cautivo de tus labios, centinela. Solo, solito voy, mi corazón se quema soñando con tu pelo, mi niña de la palmera. Thank you. e le letture ad alta voce, è ormai un appuntamento fisso delle nostre puntate di Radio Contado e non vogliamo farcelo mancare, ovviamente, neanche in neanche questo mercoledì che continua con la quinta puntata e la lettura da parte del nostro mitico rosso della Forza dei Forti di Jack London. E va bene, vi auguro buon ascolto e a dopo. Allora eravate tutti matti, commentò Cacciatore di Cervi. Eravamo davvero tutti matti, convenne Barbalunga. Era strano tutto ciò. C'era Naso Spaccato. Disse che era tutto sbagliato e disse che era vero che diventavamo più forti unendo le nostre forze. Disse anche che quando al principio avevamo formato la tribù, era giusto che gli uomini la cui forza nuoceva alla tribù dovessero essere privati del loro vigore. Ma adesso, disse, la tribù non stava diventando più forte, ma più debole, perché c'erano uomini con un altro tipo di forza che le stavano facendo del male. Gli uomini che avevano la forza della terra come tre gambe, che avevano la forza delle trappole per i pesci come piccola pancia, che avevano la forza di tutta la carne di capra come mascella di porco. La cosa da fare, disse Naso Spaccato, era privare quegli uomini della loro forza malvagia e mandarli a lavorare tutti quanti e non permettere che un uomo mangiasse senza lavorare. E la cimice allora cantò un'altra canzone sugli uomini come Naso Spaccato. Diceva che volevano tornare indietro a vivere sugli alberi, ma Naso Spaccato disse che non era così, che non voleva tornare indietro ma andare avanti, che sarebbero diventati più forti solo unendo le forze e che se i mangiatori di pesce si fossero uniti ai mangiatori di carne non ci sarebbero più state guerre né vendette né guardie e che con tutti gli uomini impegnati nel lavoro ci sarebbe stato talmente tanto cibo che ognuno avrebbe lavorato non più di 2 ore al giorno. Allora la cimice cantò di nuovo e disse che Naso Spaccato era pigro e cantò anche la canzone delle api. Era una strana canzone e quelli che l'ascoltarono impazzirono come se avessero bevuto del liquore molto forte. La canzone raccontava di uno sciame di api e di una vespa ladra che era andata a vivere con le api e che rubava loro tutto il miele. La vespa era pigra e disse alle api che non c'era bisogno di lavorare e le consigliò di diventare amiche degli orsi, che non erano ladri di miele ma soltanto buoni amici. La cimice cantò con parole ambigue, così che quelli che l'ascoltarono capirono che lo sciame era la tribù della Valle del Mare, che gli orsi erano i mangiatori di carne e che la vespa era Naso Spaccato. E quando la cimice cantò che le api ascoltarono i consigli della vespa finché lo sciame fu sul punto di soccombere, la gente protestò ringhiando. E quando disse che alla fine le buone api si sollevarono e punsero a morte la vespa, la gente raccolse dei sassi da terra e lapidò a morte Naso Spaccato, finché di lui non si vide nient'altro che il mucchio di sassi che gli avevano lanciato addosso. E molti poveri che lavoravano duro e non avevano abbastanza da mangiare, aiutarono a tirar sassi contro Naso spaccato. Poi, dopo la morte di Naso spaccato, ci fu solo un uomo che osò alzarsi per esprimere la sua opinione, e questi era Faccia Pelosa. «Dov'è la forza dei forti?» domandò. «Noi siamo forti, tutti noi, e siamo più forti di Dente di Cane, di Faccia di Tigre, di Tre Gambe, di Mascella di Porco e di tutti quelli che non fanno niente e mangiano molto, danneggiandoci con la loro forza, che è una forza malvagia. Gli uomini in schiavitù non sono forti. Se l'uomo che per primo scoprì l'uso del fuoco avesse usato la sua forza, noi saremmo stati suoi schiavi, come oggi lo siamo di Piccola Pancia, che ha scoperto l'uso della trappola per i pesci, e degli uomini che hanno scoperto l'uso della terra, delle capre e del liquore. Prima vivevamo sugli alberi, fratelli miei, e nessuno era al sicuro, ma adesso non ci combattiamo più l'un l'altro e abbiamo unito le nostre forze. Smettiamo dunque di combattere contro i mangiatori di carne. Uniamo la nostra forza alla loro. Allora saremo davvero forti e andremo insieme, i mangiatori di pesce e i mangiatori di carne, e pascoleremo le nostre capre su tutte le colline e pianteremo il nostro gran turco e le radici succulente in tutte le valli dell'alta montagna, e niente ci fermerà, perché la forza di ogni uomo sarà la forza di tutti gli uomini del mondo. Così parlò Faccia Pelosa e venne ucciso, perché dissero era un uomo selvaggio e voleva tornare a vivere sugli alberi. Era molto strano. Ogni volta che un uomo voleva andare avanti, quelli che stavano fermi dicevano che voleva tornare indietro e che dovevano ucciderlo. E la povera gente aiutava a lapidarlo. Ed era sciocca. Eravamo tutti degli sciocchi, a parte quelli che ingrassavano senza lavorare. Gli sciocchi erano chiamati saggi e i saggi venivano lapidati. Gli uomini che lavoravano non avevano abbastanza da mangiare e gli uomini che non lavoravano mangiavano troppo. La tribù continuò a perdere forza. I bambini erano deboli e malaticci, e poiché non mangiavamo abbastanza, venne tra noi una strana malattia che ci fece morire come mosche. Poi ci piombarono addosso i mangiatori di carne. Troppe volte avevamo seguito Faccia di Tigre oltre lo spartiacque e li avevamo uccisi, e adesso venivano a ripagarci con il sangue. Eravamo troppo deboli e malati per presidiare il grande muro, e loro ci uccisero tutti quanti, a parte alcune donne che si portarono via. Io e la cimice riuscimmo a fuggire, e io mi nascosi in luoghi selvaggi, diventai cacciatore e non ebbi più fame. Rubai una moglie ai mangiatori di carne e andammo a vivere nelle grotte sulle alte montagne, dove non potessero trovarmi. Avemmo tre figli e ogni figlio rubò una moglie ai mangiatori di carne. Il resto lo sapete, perché siete o non siete i figli dei miei figli. E la cimice? Domandò Cacciatore di Cervi. Come andò a finire? se ne andò a vivere con i mangiatori di carne e a cantare canzoni per il loro re. Adesso è un vecchio, ma canta sempre vecchie canzoni, e quando qualcuno vuole andare avanti, lui canta che quell'uomo vuole tornare indietro a vivere sugli alberi. Barbalunga affondò una mano nella carcassa dell'orso e succhiò con le gengive sdentate una manciata di grasso di rognone. «Un giorno», disse asciugandosi le mani sui fianchi, «tutti noi sciocchi saremo morti, e allora i vivi andranno avanti, avranno la forza dei forti e uniranno le forze, così che di tutti gli uomini del mondo neppure uno soccomberà, neppure uno combatterà contro un altro. Non ci saranno né guardie né vedette sui muri, e tutti i predatori verranno uccisi, e come disse Faccia Pelosa, le capre pascoleranno su tutte le colline, e il gran turco e le radici succulente saranno piantate in tutte le valli dell'alta montagna. Allora tutti gli uomini saranno fratelli, e nessuno se ne starà al sole in panciolle a farsi nutrire dai suoi compagni. E tutto ciò accadrà quando tutti gli sciocchi saranno morti, e quando più nessuno canterà immobile la canzone delle api. Le api non sono uomini. Thank you. in quali silenzi riecheggia. Rieccoci qua a Frittole. Cambiamo un po' tema, un tema che abbiamo affrontato così varie volte ogni tanto nelle nostre trasmissioni, ed è quello un po' della scuola, dell'istruzione, dell'educazione. E niente, oggi ne parliamo brevissimamente con due amiche e educatrici dell'asilo nel bosco, la Tana del Riccio, che sono qua al telefono con noi. Pronto? Ci Ciao. Sentite? Sì, prontissimi. Eccole, grandi. Benvenute. Siamo in fase merenda. In fase merenda, wow, che si mangia? Tanto per cominciare. Si mangia, abbiamo un assaggio di, giusto un assaggio di baccelli direttamente dalla Puglia. Uè. E poi abbiamo una torta di carote e noci. E poi la classica schiacciata che non tramonta mai. Schiacciata intramontabile per intramontabile, sì, per sì, sì, ogni tanto ogni tanto ci vuole. Siamo ritornati da poco da una passeggiata boschiva e anche animalesca, nel senso che siamo andati a trovare i nostri vicini maialetti qua giù. E poi che abbiamo fatto? Siamo in costruzione di un forno, quindi scaviamo. Un forno di terra e sassi. Sì, sarà così, sì. Perché ci vogliamo preparare un piatto tipico di una zona del mondo lontana, ovvero il Perù, e il piatto si chiama Pachamanca. Fra un mesetto abbiamo questa giornata, diciamo, di cucina di altri paesi, e quindi ci stiamo preparando. E poi abbiamo da dirvi a Frittole, dalla Tana del Riccio, dove si va tanto a giro fuori e si cerca di sopperire alla pesantezza del momento. Ecco, raccontaci un po' come funziona, insomma, come siete organizzati, come anche come è nata questa esperienza, mi piacerebbe sapere. Allora, questa esperienza nasce direttamente da una rete di genitori, ok, che stanno in una piccola comunità che si è creata intorno a questo bosco e che ha messo al mondo appunto figliolame sparso, e quindi l'esigenza viene da sé, come si dice, no? Di avere uno spazio che non sia come soliti spazi usuali abbastanza chiusi, e soprattutto in questo momento storico che stare nei posti chiusi è sempre più un problema, è un pericolo da quel che ci dicono, poi insomma ognuno ha la sua versione, però noi abbiamo scelto di aprire questo spazio proprio per supportare sia le famiglie che l'hanno tanto richiesto, e mano a mano si stanno aggiungendo sempre più persone, quindi di questo siamo contenti. Siamo una realtà non da tanti numeri, perché appunto crediamo anche che l'educazione sia importante quando è fatta con le giuste misure, sia di bimbi che di spazi che di tempo, e quindi siamo una realtà che crede appunto nella questione di nicchia, non per fare diciamo i radical chic della situazione, ma più per appunto avere il tempo e avere sempre il giusto spazio, sia educativo ma non solo, relazionale, e quindi per avere questa sorta di tempo e spazio giusto uno deve appunto non andare dietro al dio money, ma cercare il dio benessere. Quindi noi crediamo fortemente in questo tipo di percorso da quando si nasce fino a quando si muore, diciamo così. E quindi nulla, per i nostri pargoletti, volendo il meglio, natura, cose buone da mangiare, tanti giochi, e poca pesantezza. Abbiamo fatto una scelta importante, forse per questo magari più in qua ne pagheremo le conseguenze, però come educatori abbiamo scelto di non usare le mascherine. È vero che abbiamo deciso di stare tanto all'aperto, di controllare il benessere dei nostri bimbi, della salute dei nostri bimbi costantemente, però ci sentiamo proprio di fare un danno grossissimo a non mostrare i nostri volti quando parliamo e quando interagiamo con i nostri bimbi, e quindi chi lo sa, forse per questo verremo bruciati, come si dice, in piazza, un robo di educatori, un robo di educatori, lunga vita e grande fortuna, ragazzi, speriamo anche noi, la primavera è alle porte, e quindi tutto è in discesa per ora. Abbiamo passato un lungo inverno, ma l'abbiamo svangato abbastanza bene, e quindi ora è tutto in discesa, è tutto solo un giocare, divertirsi e crescere tranquillamente. E senti, accennavi prima, scusa, non so se volevi continuare o ti posso già fare una domanda. Certo, mi puoi fare una domanda. Hai accennato al fatto che l'esperienza si è anche ingrandita rispetto a quello che era il nucleo di famiglia, o comunque il nucleo della comunità che ha fatto nascere questo asilo. E quindi volevo chiederti un po' se appunto in che senso, cioè ci sono persone e bimbi diciamo che vengono anche da fuori, e poi noti, te lo chiedo insomma un po' il tuo punto di vista, se ti sembra che negli ultimi anni appunto ci sia un interesse a praticare quella che è la quelli che sono percorsi educativi sia in qualche modo autogestiti o comunque che escano da quella che è il percorso educativo dominante, ecco, fra virgolette. Allora, risposta alla prima domanda, sì, ci sono anche delle famiglie che hanno scelto di venire a portare figli anche da lontano, e che non sono direttamente in questa comunità, ma che ne sono entrati a far parte oramai da 7-8 mesi, e quindi sì, è una realtà che comunque è aperta, non è grande come realtà, ma è aperta a chiunque voglia ritagliarsi questo spazio qui. E la cosa particolare è che appunto non è un servizio che fa il suo servizio e finisce pari al suo servizio, ma è un servizio che è continuamente alimentato e portato avanti anche proprio dall'appoggio dei genitori continuo, da portare i bambini su nel bosco, fanno un po' per uno, dal cibo il giorno, abbellimenti, per esempio il forno che vi dicevo prima, verrà uno dei genitori appunto che è peruviano e ci farà questa lezione di costruzione forno e cucina peruviana, e quindi anche per l'intercultura, diciamo, siamo così, quindi ci sono anche persone che sono al di fuori. E poi ci sono molte persone che ora stanno scegliendo sì, di portare i loro figli all'aperto, o comunque in realtà che prediligono l'educazione all'aperto. E c'è stata un'esplosione in questo anno, vuoi per il Covid, vuoi sicuramente per il Covid più che per altro, però sì, c'è stato... Sta arrivando fin laggiù il trattore, Ollo, hai visto? Noi qui siamo proprio... Perché siamo, siete proprio, c'è la preparazione... nel campo siete, eh? Siamo nel campo, c'è la preparazione, in questi giorni c'è la preparazione terreno, e quindi c'è Oliver che mi sta dicendo a più mandate, sta passando il trattore anche laggiù, sì, perché c'è da seminare i girasoli fra poco, capito? Quindi siamo a preparare il terreno qua col trattore, vero? Oliver? Davvero. Ciao, Oliver. Va bene, lo so. Senti un po'. Salutali. Ciao. Ciao. Ti hanno sentito che dicevi del trattore, quindi volevano sapere che fa quel trattore. Lavora. E poi si fa dopo, si pianta cosa? Girasoli. E vai. Forte e chiaro. E quindi sì, noi ci siamo alzati da pochino con Oliviero, si è fatto merenda, però poi c'è quest'urgenza di venire a vedere i lavori che sono partiti ieri e ancora non sono finiti, e quindi cioè, abbiamo la supervisione qui dall'alto della parte. Certo, è che le attività nel campo vanno avanti e vanno controllate bene. Perché... Certo, sì, non gli scappa nulla a loro. Non gli scappa nulla. Già è venuto anche qui il trattore. È venuto anche qui il trattore, sì, ora è andato nel campo di là. Aggiornamenti da Oliviero, precisi. Il nostro inviato speciale. L'inviato speciale, 85 centimetri di inviato. Okay. Però può avere un futuro in radio contato, ecco. Ha già la poltrona assicurata. Sì. Dice quando è vicino fa paura il trattore, perché è un po' grosso a te. Giusto. Sicuramente, ma noi ci stiamo a distanza, vero Oliver? E quindi nulla, sicuramente questo, cioè, ritornando a discorsi un po' più seri, in questa epoca appunto di Covid, in questo anno di Covid, sicuramente queste realtà che faticavano a partire per tante motivazioni, vuoi anche l'incredulità della famiglia o forse della comodità nel portare un figlio alla scuola magari che ha un ingresso che non deve attraversare 4-5 km di sterrato, cioè delle varie comodità, però ora come ora c'è una grandissima richiesta, proprio perché si spera che sia chiaro il concetto di salute sempre di più, e che la salute va in base a quanto stiamo anche in natura e all'aria aperta, e quindi sì, c'è proprio un ritorno al fuori, all'uscita, all'outdoor education piuttosto che altri filoni. Però sì, stare fuori, ci si contagia meno, si respira l'aria buona, c'è meno possibilità di prendere anche altre malattie, perché quest'anno sembra che figlioli possono prendere solo il Covid, però però diciamo quindi... che siamo più sani nel totale, ecco. Sì, esatto. Diciamo che una delle cose positive di questo periodo è un po' magari un avvicinamento alla natura, sì, o comunque una forzatura, sì, un po' a prendere delle abitudini che poi in realtà sono sane e sono giuste. Sì, che in realtà sono giuste, quelle che dovrebbero essere alla base, ma sono diventate strane in questa società strana, quindi... E più che altro fino a un anno fa, quando è partito tutto il macello, e davvero erano realtà di nicchia, erano realtà anche molto care, e continuano a essere un po' care rispetto alle scuole convenzionali. Noi invece ci sentiamo di dire che siamo abbastanza, appunto, per la comunità e non per il zio denaro, e quindi non siamo cari, siamo abbastanza, come si dice, abbordabili, e siamo però in pieno, come si dice, in piena linea con la natura. e la natura non prevede soldi se non quelli giusto per il sostentamento, e quindi non crediamo nell'arricchimento ma nel riuscire appunto a campare, ecco, parola giusta. Esatto. Non per ammucchiare ma per campare. Grazie. Bene, non ti rubiamo altro tempo, lasciamo tornare dai bimbi e dalle bimbe che salutiamo. Va bene. Grazie, sì. Sì, grazie per quello che ho fatto, grazie per essere anche intervenute e qui da noi. Sono stato molto contento, riaffermiamo sempre e con noi, con voi, che appunto la salute è benessere, la salute è una relazione sana con le altre persone, con l'ambiente che ci circonda. E quindi tantissimi auguri, tantissimi auguri, lunga vita e fortuna, e vi ringraziamo per essere stati con noi. Davvero, grazie anche a voi. Ciao, da Frizzole. Ciao, a presto. E a presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Dici ciao, Oliviero. Oh. Bu. Ciao, Oliviero. Ebbene, abbiamo sentito questa bellissima realtà, e è vero che ne stanno nascendo tante di scuole, asili parentali all'aria aperta in questo periodo, anche perché le scuole normali sono prevalentemente chiuse, quindi o uno sta al computer o se no si attrezza in un altro modo. Sì, infatti. Sì, no, rimangono in presenza le scuole materne. Sì, solo nelle regioni non rosse, però. Solo nelle regioni non rosse, esatto. E poi anche questa cosa importante è il discorso della mascherina, come ci ricordava prima. Se noi ci pensiamo, no, a quant'è l'importanza nei primi anni di vita, di crescita di un bimbo e una bimba, e come è importante comunicare, no, con una figura che però è mascherata. Sì, di cui non vedi, cioè, la maggior parte delle espressioni. Non si sa quanto. E che. Sì. E sono anche. Che impatto può avere? Bimbi e bimbe che stanno imparando a parlare in questo momento, e quindi anche non vedere il labiale del proprio educatore, educatrice, insomma, non è che proprio aiuti. Va bene, bom bom bom, come direbbero i nostri amici in camicia. Andiamo avanti allora. E continuiamo, allora continuiamo in musica. Cosa ci proponi per questo stacchetto, Doctor? Allora, avevo messo delle canzoni che però erano in formato non supportato. Senti, ma invece tu che sei con la mail aperta, è arrivato qualcosa? Nessuno ci scrive, ecco. Allora, sul Radio Contado. Velocissimamente, noi possiamo controllare Radio Contado @insiberia.net. Esatto. Bravo. Fammi fare una previsione. Nessuno ci ha scritto. Neanche la greba, no? Lo scopriremo presto. Neanche la greba, no. Vediamo un po'. Comunque io c'ho il pezzo in canna, la pallotta là in canna. Vai col pezzo. Quindi vado col pezzo. Joshua Redman, Herbs and Roots. E noi eravamo qui a fare battute sul fatto che non ci scriveva nessuno. Invece ben 2 mail ci sono arrivate. Un giorno importante. Però... Sì, sì, incredibile, infatti la nostra pigrizia ci punisce ancora una volta. Non avevamo una mail aperta, infatti sono arrivate delle mail. Sì, una mail, vabbè, è un troll, sì, è un vero e proprio troll. Sì, è un troll palese, infatti la sua mail è finita direttamente nello spam, direttamente proprio, non l'avevo neanche vista. Comunque ti salutiamo, Reve, sei nei nostri cuori, grazie. Capito, neverendo, ti vogliamo love. Bene. E l'altra mail invece ci parla di una cosa molto interessante che avremo modo di approfondire nelle prossime puntate. E cioè appunto ci sollecita la nostra attenzione sulla realizzazione di questo parco eolico che appunto minacciano di costruire sul crinale tra Vicchio e Dicomano verso Villore. Villore. ragazzi, vengo subito bacchettato. Sti toscani. E un apparente mega progetto dell'eolico industriale di cui approfondiremo il tema e ne parleremo sicuramente nelle prossime puntate. Sì, in realtà già l'anno scorso, ora non ricordo chiaramente che puntata, però ne parlammo con Ruvido. Col grigio, sì. Ne parliamo qui in radio perché sì, insomma, si tratta di un progetto veramente devastante che avrebbe un impatto su tutto il crinale, diciamo su quella parte lì di crinale a cavallo fra Casentino e Mugello, devastante, che coinvolgerebbe più di 8 chilometri appunto di terreno boschivo e di crinale, che ora come ora è un ambiente bellissimo, incontaminato. Quello del gioco di Villore è piuttosto anche rinomato per escursioni, per un sacco di sentieri che ci sono e per la bellezza e lo stato di salute dei boschi che ci sono. E questo impianto rischia veramente di portare una devastazione del territorio senza pari, in quanto si tratta appunto di un 8 pale eoliche, come ricordava Bepi, di eolico industriale che è una scala di grandezza immensa. E già solo i basamenti di ogni pala sono veramente, si parla quasi di un ettaro di cemento per ogni base. E comunque sì, prossimamente ne parleremo approfonditamente. Stavamo già pensando di tornare sull'argomento e grazie a Giovanni per avercelo sollecitato scrivendoci questa mail. No, niente, volevo passare la parola al nostro caro Bepi, che con la sua voce suadente andrà avanti in questa puntata con una lettura. La cura è nella terra, l'esproprio dei terreni industriali in Val di Susa. Continua anche in questa puntata la nostra riproposizione via radio, via etere, di alcuni articoli di Nunatak, rivista di storie, culture, lotte della montagna, una pregevole rivista cartacea, come piace a noi amanti della vecchia scuola della comunicazione, che esce ormai insomma da quasi 20 anni, okay? Bisogna dirlo. E un numero ogni stagione. Appena uscito il numero 59, che contiene questo bellissimo articolo, un'intervista corale ai partecipanti, le partecipanti del nuovo presidio Notà di San Didero. a dicembre 2020 vengono occupate e recuperate terre e fabbricati abbandonati a San Didero, nel mezzo della Valle di Susa. Si tratta di terre destinate a un autoporto autostradale internazionale, uno dei tanti progetti collegati al treno ad alta velocità. La loro occupazione, oltre che opporsi all'avanzata del TAV, vuole restituire questi luoghi alla loro funzione ambientale e sociale. Innanzitutto, chi siete? Quindi è la prima domanda di questa intervista alle partecipanti al presidio. Le persone che hanno dato vita a questo presidio abitano la valle, ma non si conoscevano tutte. Alcune si sono conosciute nel tempo, nella vita sul territorio o nei momenti di lotta. Altre si stanno conoscendo ora. Potremmo dire che siamo un gruppo di persone unite dalla lotta e dalla difesa del territorio, un gruppo che sta prendendo l'identità e che, come fili intrecciati, è unito ma composto da tante singolarità. Ci unisce la lotta al TAV e un sentimento profondo di legame con la natura. I più giovani e le più giovani di noi sono nati in valle e nella lotta no TAV, ma crescendo ci siamo aperte a tante altre questioni e alla lotta in generale. La vostra prima dichiarazione è stata: la cura è nella terra. Che cosa significa? C'è bisogno di ritornare alla terra, siamo natura, abbiamo bisogno di espandere questo sentimento in modo intergenerazionale. Siamo in un momento storico che è chiamato a trovare un rapporto con la terra radicalmente diverso da quello che l'umanità, o meglio l'organizzazione umana egemone basata sull'industria, porta avanti. L'umanità non è piegata da virus, ma dalla loro diffusione rapidissima e globale, conseguenza di una forma di vita iperconnessa e denaturata. Non c'è più spazio, non c'è più un fuori dalla civiltà industriale. È una questione globale, ma a livello di comunità locale, medio-piccola, oltre a dire no, vogliamo anche sperimentare un altro rapporto con l'ambiente circostante. Ed ecco la ricerca della sostenibilità ecologica, l'autoproduzione e la produzione agricola, l'uso e riuso dei materiali. La cura è legata al concetto di terra, anche dal punto di vista spirituale. Non tutti crediamo alla cura come artificio scientifico, allopatico, calato dall'esterno, da un laboratorio asettico che nulla ha a che vedere col territorio, con le persone che lo abitano e dalle risorse che contiene. La cura non è un medicamento, ma una pratica che nasce da chi ne ha bisogno, dal luogo in cui vive e dalle interazioni che avvengono su di esso e con esso. Noi rivendichiamo un'altra destinazione per queste terre che da 40 anni sono passate di mano in mano a vari gruppi imprenditoriali, portandole allo stato attuale. Terre di riporto, stentate e pietrose, nelle quali sono stati tombati rifiuti tossici di vario genere e pericolosità, oltre a contenere strutture in cemento armato oggi fatiscenze. Ma più di tutto, queste terre e tutte quelle qui intorno sono contaminate da alti livelli di diossina, prodotta per decenni dagli acciaierie qui di fronte e mai bonificata. È un problema che hanno anche i terreni coltivati e pascolati nei dintorni. Pare che il picco massimo di rilascio di diossina in aria sia durante l'epoca di aratura. La diossina è per sempre. Questo è quello che ha portato alla cultura industriale, di cui, secondo i promotori del TAV, avremmo nuovamente bisogno. Probabilmente ciò di cui abbiamo bisogno in questo caso è che la natura faccia il suo corso, visto che le zone bonificate sono quelle più brulle, dove non cresce più nulla. Stiamo pensando a delle proposte grazie anche a delle persone che hanno delle conoscenze a riguardo. Si è formato un gruppo di lavoro sulla rivitalizzazione dell'area e sul suo uso. La popolazione, e adesso anche noi, ha sempre usato questi terreni per fare legna, soprattutto sulle rive della Dora. La miglioria del terreno e il suo uso per legnatico vanno di pari passo e stiamo cercando le migliori pratiche da usare, dove apportare sostanza organica e semi per estendere il bosco e dove invece poter prelevare la legna. Questa intervista continua con la terza domanda. La prima cosa che avete fatto è stato costruire una piccola capanna di legno sul tetto di uno dei capannoni abbandonati. Com'è andata? È stato un momento fondamentale, importante per quello che questo spazio rappresenta come punto di accoglienza e come simbologia. Sopra i resti di un luogo desolato e inabitabile, sopra il degrado portato dal cemento, una casetta di legno riciclato, luminosa, pulita, dove dormire. è la postazione di avvistamento e l'ultimo baluardo di resistenza, ma è anche la capanna in cui si dorme, lo spazio intimo dal quale si vedono boschi e montagne, una specie di ripartenza, un voler annullare quello che purtroppo c'è sotto. Poi abbiamo creato altri spazi di vita, la cucina, il salone con il forno per le pizze, l'aula studio e altri ancora sono in cantiere. Gli spazi non mancano. Costruendo abbiamo creato confidenza e sinergia. Molti di noi hanno imparato a fare delle cose nuove come montare finestre, sollevare materiali con le corde e nodi, usare certi attrezzi e anche abbiamo sperimentato un modo diverso di fare le cose in autogestione. Il primo obiettivo dell'occupazione era rimanere sul posto fino al 31 dicembre. E ora? Il 31 dicembre era una data legata ad alcune scadenze progettuali che non hanno rispettato. Dovevano teoricamente iniziare lavori, ma ciò non significa nulla, perché la copertura politica di cui gode quest'opera permette loro qualsiasi deroga alle procedure, anche a quelle legali. D'ora in poi, però, la nostra presenza pone una questione in più per loro e l'inizio dei lavori non potrà avvenire senza opposizione e resistenza. Dopo i primi passi c'è stato un esplodere di iniziative di ogni tipo, incontri, laboratori praticamente quotidiani. Che cosa significa secondo voi? Che c'è bisogno di luoghi dove stare insieme e stare insieme bene. C'è un bisogno enorme di socialità. Abbiamo creato una bolla di resistenza, forse delicata ed effimera, ma è resistenza anche alle privazioni imposti dallo stare a casa in attesa di un vaccino che aggiusterà tutte le cose. La socialità è importante perché è il momento in cui provi modi diversi di stare e di fare che molti non immaginano possibili. È importante per avvicinare nuove persone e anche per ricreare quell'ambiente popolare che si è un po' perso negli ultimi anni nei vari gruppi del movimento. Molti, tanti soprattutto più grandi, vengono qui e dicono: è un salto di 10 anni indietro, mi sembra la Maddalena, la Libera Repubblica. Parliamo delle dinamiche interne e organizzative, come funzionate? C'è una formula di consenso che era già da subito presente, una predisposizione all'ascolto che ha permesso di esprimere opinioni e critiche profondi senza impedire di trovare soluzioni comuni. Il confronto è libero e ognuno è continuamente invitato a esprimersi. C'è molto tempo passato insieme, quindi non c'è solo l'assemblea dove confrontarsi ed esprimersi. Chi per timidezza o per timore non si esprime in assemblea ha comunque modo di far sentire le proprie opinioni ed è importante che chi parla di più ne tenga conto, altrimenti l'assemblea diventa competitiva, una lotta tra personalismi e gruppi politici. Quello che ha colpito alcune di noi fin dall'inizio, già prima che prendessimo il posto, è che nonostante carismi ed esperienze diverse, non ci sono dei capi, ma tutti possono essere protagonisti. E la nostra intervista quindi si conclude con l'ultima domanda: quali prospettive ci sono secondo voi? Dipende dal tempo, ma l'idea di restare c'è. Saranno 4 giorni o 4 mesi, ma noi continuiamo con ottimismo come se non dovessero mai arrivare. Difendere questo posto significa difendere anche ciò che abbiamo creato tra di noi. Nasceranno altre cose, qui di fianco, per contrastare l'aeroporto e altre legate alla terra, al territorio e alla socialità. Rimarranno i rapporti costruiti e le idee, però delle idee concrete, un qualcosa che potrà comunque andare avanti. E così si conclude questa bella intervista corale a cura della redazione di Nunatak, rivista di storie, culture, lotte della montagna, ai giovani e le giovani Notav del nuovo presidio di San Didero, che ovviamente, se siete in zona, vi invitiamo a visitare, a supportare, ad andare a portare a compagnia, solidarietà, quello che volete, che potete. Lunga vita al presidio e alla resistenza Notav. Per chi fosse interessato poi a il nuovo numero di Nunatak, vi ricordiamo che è possibile trovarlo nella distro che dovrebbe essere presente in Piazza Tasso tutti i venerdì. dove si potrà trovare Nunatak e anche altre pubblicazioni cartacee, opuscole, riviste molto gustose, molto molto interessanti. E vi leggo brevemente, ancora prima di venire l'acquolina, il sommario di questo nuovo numero. Siamo le nostre montagne, il conflitto armeno a zero nella polveriera del Caucaso, poi giocare con le tradizioni, la bala nelle prealpi bresciane e ignari della bala alla Mormai, alle origini del movimento autonomista occitano, selce, frecce, fuoco, saperi senza tempo né confini, la cura nella terra, esproprio di terre industriali in Valsusa, l'articolo che abbiamo appena letto, compasso ostinato contro sgombero e speculazione, drizziamo le antenne, un appello. Perfetto, grazie Bepi, grazie di questo contributo e di prenderti cura, appunto, di aver introdotto, ecco, questa la presenza di delle letture di Nunatak in questa radio, che è un po' anche questa un po' una novità di quest'anno, e prossimamente faremo in modo di avere anche un contatto diretto a voce telefonicamente con la redazione della rivista. Per ora andiamo avanti, io alzo un po' il tappeto e ci si prepara a contattare la Gineprina, che è un po' che non la sentiamo. E torniamo in diretta dai Frittole Studios, Radio Contado, in contatto con la nostra amata Gineprina, che non sentiamo da un sacco di tempo. Pronto? Pronto. Eccola Gineprina. Eccoci, ragazzi, salve a voi. Come state? Tutto bene? Abbastanza. Non c'è sì. male. Sì, sì, non c'è male, non c'è male. Grazie Gineprina. Non c'è male, è già qualcosa. E te come stai? Io sto bene. Sono reduce da un assaggio di germoglio primaverile. Oggi anzi vi parlerò di un po' di germogli. Sì, sì, hai i tuoi 10 minuti liberi. I miei 10 minuti di corsa? No, no, neanche troppo. Ho assaggiato il germoglio dell'equiseto. Perché l'equiseto ha una caratteristica di avere un germoglio particolare rosato, che è un fusto. L'equiseto è una specie di felce, e quindi a primavera la prima cosa che appare dell'equiseto è un fusto rosato ricco di spore. Poi da queste spore, quando cadranno a terra, si formeranno i fusti verdi, che sono sterili però, e che sono quelli che normalmente utilizziamo in erboristeria, perché sono ricchissimi di silice, di flavonoidi, di saponine, di manganese, di ferro, di calcio. È una pianta preziosissima, è uno dei migliori rimineralizzanti per le ossa, è un cicatrizzante, è diuretico, è emostatico, è astringente. Insomma, l'equiseto è una delle piante più interessanti che abbiamo. E pensate che tra le sue caratteristiche c'è anche quella di essere una delle più antiche piante della Terra. Pare fosse già presente sul nostro pianeta 350 milioni di anni fa. Una di quelle piante considerate un fossile vivente. Veramente, quasi. Proprio un fossile vivente. Chiaramente all'epoca, per esempio, dei dinosauri, l'equiseto era altissimo. Era un albero di svariati metri e poi si è ridotto con le glaciazioni. E pensate che delle 15 specie di equiseto che esistono al mondo, 10 fanno parte della flora italiana. Quindi è anche un primato avere l'equiseto in Italia. Il nome viene dal latino equus, cavallo, e seta, crine. Crine di cavallo o coda di cavallo, come è stato ribattezzato, insomma, nella tradizione in alcune regioni italiane. E lo troviamo in luoghi umidi, sabbiosi, sui greti dei torrenti, diffuso un po' dappertutto nella nostra penisola. E, dicevo, questi fusti fertili rosacei vengono anche mangiati e hanno un sapore un po' vagamente simile all'asparago, un po' polveroso, perché chiaramente ci sono sempre un po' queste spore anche che affiorano in mezzo al gusto del fusto rosato dell'equiseto, e c'è chi le mangia come appunto gli asparagi. Un uso agricolo dell'equiseto, tra l'altro, è quello di essere impiegato come macerato nell'orto, perché è un ottimo antiparassitario naturale. Sì, io lo conoscevo con questo uso. L'uso commestibile mi era... c'è anche un uso commestibile. È una pianta che io l'associerei un pochino anche alla consolida, perché anche della consolida si fanno dei macerati per l'orto. Diciamo, sono due piante che nell'agricoltura naturale si potrebbero usare frequentemente. Che la consolida però è considerata più un fertilizzante naturale, quindi sì, il suo macerato viene usato come appunto per fertilizzare, mentre il macerato di equiseto ha un'azione più difensiva sulle piante. Esattamente, però diciamo che viene considerato anche l'equiseto un buon rimineralizzante, per quanto siano di famiglie molto lontane, perché appunto è un'equisetacea e invece la consolida è una borraginacea, infatti ha queste tipiche foglie pelose, un po' come le borragini. Hanno tutte e due la qualità di tenere insieme, infatti il nome scientifico della console era Sinfitum officinale, no? Sinfo viene, vuol dire unire, viene da tenere insieme. E infatti un uso tradizionale della consolida è l'impacco di foglie fresche, contuse, eccetera, che veniva messo su slogature e frattire. L'equiteto, anche lui, ha la capacità, grazie al silicio o ad altri tanti tali minerali che contiene, di migliorare anche lì le ossa del nostro corpo e di migliorare i tempi di rinsaldamento quando ci sono fratture. Poi anche la consolida, come si diceva, appunto, è preziosa nell'orto come ottimo fertilizzante, e in più le sue foglie servono come facciamatura per pomodori, per le patate, sono anche proprio un bioattivatore dei compost. E io ho visto che quando tolgono dall'orto le consolide, perché magari ce n'è troppe, il terriccio sotto alle radici è bello, fresco, morbido, drenato, e quindi probabilmente dà anche un bel effetto migliorativo sul nostro sistema. E nella tradizione le sostanze che contiene la consolida, queste mucillagini, l'allantoina, i tannini, questo acido rosmarinico, alcaloidi varie, erano anche qui utilizzate come cicatrizzanti. Tutte le problematiche della pelle, dalle ustioni agli arrossamenti, alle piaghe, alle ferite, alle ragadi, addirittura anche le ferite. Quindi una bellissima pianta che mi è venuta in mente insieme all'equiteto, perché stranamente hanno delle caratteristiche. E poi uno dei germogli del nostro periodo è senz'altro l'asparago. L'asparago. Che cos'ha in comune l'asparago, per esempio, con l'equiteto? Anche lui ha una proprietà diuretica molto forte, molto depurativa. L'asparago è il germoglio per eccellenza, questi giovani germogli chiamati turioni si trovano soprattutto nei boschi, nelle zone queste zone adatte anche alla coltivazione dell'olivo, quindi dalle nostre parti se ne trovano tanti. Foglie piccolissime, sono come delle scagliette le foglie dell'asparagina, e in realtà quelle che sembrano foglie sono dei rametti trasformati, no? Questi rametti che formano gruppettini di 2-3, e all'ascella delle vere foglie ci sono questi gruppettini di 2 o 3 fiori che appaiono in piena estate, hanno una forma campanulata, di colore bianco, verdastro, piccolini. Il frutto dell'asparago invece è una bacca di colore rosso. E cosa succede? Questo asparago selvatico che viene utilizzato nelle frittate, nei risotti oppure lessato normalmente, talvolta viene apprezzato anche di più dell'asparago che si acquista, quello coltivato, talvolta viene confuso con altri germogli come quello del fungitopo. Il fungitopo ha un tipo di germoglio che a volte potrebbe trarre in inganno, quindi bisogna stare attenti a prendere quel germoglio che nasce vicino alla pianta di riferimento. Se c'è un fungitopo vicino, diffidate. Se c'è invece tutte asparagine, prendete pure l'asparago. Però comunque il fungitopo, d'altro canto, è buonissimo comunque. E poi finisco. È anche questo una pianta molto importante nell'erboristeria. Ecco, ma non è commestibile? C'è Beppi qui, no, che l'asparago del fungitopo Beppi dice che è buonissimo, contiene delle sostanze delle sostanze un po' tossiche, quindi sì, c'è chi lo mangia, ma il suo rischio è pericolo perché, no, perché è pieno di saponine, per esempio, capito? Quindi... capito. Ma perché in Veneto, dalle mie parti, invece è molto apprezzato nella zona, ecco, di Treviso, ha un nome, qui, cioè, qui ci dicono che bisogna Rustgott, lo ricercano, vedi, lo ricercano, infatti è lo stesso che succedeva un tempo per i funghi porcini, che in certe zone dell'Umbria non venivano assolutamente raccolti perché venivano considerati funghi non buoni. Poi magari si scopriva che invece nello Stato Vaticano erano molto apprezzati, venivano raccolti e tutti questi funghi andavano a Roma. Sì, però ecco, ci sono delle, delle strane leggende, no, su queste cose. Ora sì, c'è chi mangia anche questi asparagi, diciamo, del fungitoso. No, se posso dire, hanno un gusto molto particolare, sì, sembrano quasi liquirizia. Sì, hanno un gusto diverso, vero? Sono particolari, insomma. Addirittura bisogna anche abbinarli, giustamente, perché sono molto forti. Infatti. Di sicuro, però, il fungitoso, che viene tra l'altro chiamato asparago pazzo e anche piscialletto in sardo, per esempio, ha un sacco di proprietà. Ha un sacco di proprietà perché, nonostante queste saponine, l'olio essenziali, eccetera, i tannini che contiene, risulta in ogni caso un ottimo diuretico, e questo soprattutto nella radice, la radice. E poi viene ad annoverarsi nel famoso sciroppo tradizionale delle cinque radici, che è uno dei migliori diuretici che si possa fare. E questo sciroppo delle cinque radici conteneva appunto la radice di topo, di rusco, la radice di asparago, di prezzemolo, di sedano e di finocchio. Le cinque radici. E poi le cinque radici, proprio lo sciroppo delle cinque radici, uno dei diuretici migliori, ecco. Poi per uso esterno, sempre il fungitopo è un ottimo decongestionante, antinfiammatorio, adatto per le pelli con cuperose, quindi ha anche proprio delle sostanze decongestionanti e riparative sulla nostra pelle. Si trova in numerose creme che vanno appunto a risanare certe problematiche. E questa pianta va bene, non va dimenticata, è una pianta che prima veniva più utilizzata in erboristeria, adesso molto molto meno, e invece è una pianta molto importante con delle evidenti caratteristiche e fa parte della nostra tradizione, della nostra fitofarmaceutica. Bene, ragazzi, io grazie, sempre molto interessante. Sì, siamo... grazie mille, Ginepri. Siamo rimasti rapiti, insomma, da, come sempre, dal tuo sapere, che in modo molto così amichevole tu ci vieni a donare in radio. Vi ringrazio, per me è un piacere e spero di risentirvi presto e di raccontarvi qualche altra storia. Sicuramente. Sì, anche perché adesso è periodo di raccolte, di spontanee e tutto, quindi ti ricontatteremo sicuramente nelle prossime puntate. Molto volentieri, devi, ragazzi, devi dire tutto, complimenti per il vostro lavoro, utilissimo. Ciao. Prezioso. Ciao a voi. Ciao, Gineperina, grazie. Ciao. Io rimango sempre ammaliato dal tono cortese e preciso della Gineperina. Sì. Veramente una professionista. E Gineperina, la nostra erborista streghetta di fiducia, un po' streghetta di Radio Contado, sì. E noi sono le 16:34. E quindi ci avviamo un po' alla chiusura di questa ennesima trasmissione. Senti, ma ci metti una musichina prima della rassegna eventi? Ma c'è una rassegna eventi, quindi? Sì, c'è qualche evento? C'è sempre una rassegna eventi. Allora, guarda, la vado subito a cercare. e non la trovo. Mettici una musica qualunque, poi cerchiamo la nostra sigla eccola. Preferita. Eccola, eccola. Pronti? Attenti, via. Rassegna eventi di metà marzo 2021. Metà marzo, esatto, spara, che io allora, non ho neanche internet sul computer, non sono andato a vedere niente sull'appunta.org, ma voi che io invece visto, avete l'internet andate a vedere comunque. Però ho visto, rimanendo un po' in tema scuola e istruzione, che stasera c'è un'assemblea online di priorità alla scuola, che è il comitato che insomma sta un po' difendendo la necessità di fare scuola in presenza, e quindi molto alle buono. 18:30 un'assemblea online, e il 26, un po' in là, però il 26 ci sarà una mobilitazione sempre di priorità alla scuola, mentre sempre stasera vi segnalo una trasmissione, anche questa online purtroppo, e su folklore, folclorismo e folk. La trasmissione si chiama Dir di Danza ed è tenuta dal professor Gala, che abbiamo sentito qualche volta in radio, dell'associazione Taranta. E niente, stasera alle 8:30 inizia questo primo incontro di un ciclo di così lezioni chiacchierate. La trasmissione sarà su una piattaforma in cui la gente può seguire e parlare, quindi non è una diretta Facebook in cui non si può intervenire. E niente, il tema sarà appunto la differenza e il contesto del folklore, folclorismo e folk, cioè per riguardo alla danza. Come scusa, mi sono perso. Che vuol forse. Dire? No, io intendevo come possiamo partecipare. Ah, c'è una mail che mi sembra sia, adesso la dico subito, sabina@taranta.it, a cui scrivere, e vi verrà inviato il link della trasmissione per seguirla. Perfetto. E poi andiamo sui nostri mercati, che dite? Come sempre partiamo da domani, il mercato di Ponte a Sieve, di Val di Sieve in transizione, e niente, il pomeriggio nella piazza che io non mi ricordo mai come si chiama, però di Ponte a Sieve, non importa, la troverete. Nessuno se lo ricorda mai. E mercato che appunto anche questo sta resistendo nonostante un po' gli attacchi da varie parti che gli stanno arrivando. E poi abbiamo venerdì il nostro amato mercato di Piazza Tasso dalle 15 in poi. Importantissimo esserci. Voi altri passate, che ci ascoltate, venite in presenza al mercato, e dove si fa della ottima spesa a ottimi prezzi con delle bellissime persone che coltivano i cibi che troverete, o creano, producono i cibi che troverete. E poi io non ho in mente altri poi eventi. Martedì, già giusto. Il carissimo mercato dell'Isolotto di agricolture davanti alla biblioteca Canova dell'Isolotto, sempre il pomeriggio dalle 15 in poi. Carissimo non perché è costoso, ma perché ci è caro. Perché li vogliamo bene, anche questo piccolo mercato. Esatto. Che ci accompagna da anni. Via, e la sigla rassegna eventi sta per terminare. Sì, anche perché poi nel weekend non abbiamo niente, perché non si può fare niente, non ci gli eventi fare niente, anche sono terminati, a parte qualche evento autogestito che spero stiate organizzando per conto vostro. L'ultima volta che ho detto questa cosa ci hanno censurato. Infatti, doctor, questa coppia qui davanti a me potrebbe essere pericolosa. È vero, non è vero, sbilanciamoci no, troppo. Erano altri tempi. Erano dai. Altri solo tempi. Amore per mamma Wombat, mamma mia. Vai. Ringraziamo ancora mamma Wombat. Sì, rimanete su Wombat. Sempre. Sette giorni su sette. E siamo arrivati alle fine anche di questa puntata, ragazzi. Davvero. Ce l'abbiamo fatta? È stata una puntata molto eclettica. Abbiamo parlato di tantissime cose diverse. È stata molto interessante. Esatto. Non è vero. E quindi dai, da parte del dottor Io un bel saluto e buona serata e buona settimana. Sì, anche Modesta vi saluta. Scriveteci durante questa settimana fino a mercoledì prossimo a radiocontado@insiberia.net, così ci sorprenderete ancora. E salutiamo anche il Beppi, che saluta. È concentrato su, non sappiamo su cosa. Vuoi salutare o vuoi, ti lasciamo, guarda, ti lasciamo il microfono acceso e si va via noi. Grazie ragazzi, siete super carini. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima. Frata mia, già capito che niente te vale rit. Come te, sto immerso fino a quella rinda shit. Che ciò mi fa così, che diventa più triste. Ma stai stressando da quando fa pure casa t'ha già visto. Ciao, come stai, che se riesce. È commenzato con una smorfia amare in un sorriso. Poi mai contato che per te che stai in una fase crisi. Un testo mai incontrato per quanto cazzo mi incise. Merite spissa pare come un te caro in gol. Ma quanto si prolisse tu giuro non me la col. Potei pigliato spliff e sicuro e magnato pol. Pensa che mai cercato stesso pure. Se stivo mi sana fol. Se sei data religione gira curo saria man. Non sei manca ragione ma si pare per te sacale. Du calvari stu mondo vario scenari. E che manna chiesta una laurea in agraria. Sullo po' vendi patana. Perciò per te lamentà hai sbagliato soggetto. Stonca sempre a spantacà. Ormai tengo ricetta. Tenga c'è cazzeri mi pare con tutto rispetto. Basta custa po' contri. Se tu stai con macetta state lontana da me pure perché. Porta se c'è lontana come già state sempre lontana. Raffice terra zappa e patana. Non mi serve una regge. I pulpette poppano, tutti i giorni festeggio. I venghe padano, fa di gatta semana. Che galan coppe in mano, voglio non mi stessa. Ma non licenziato, sono tutta azzeccato. Televisore arrato, non posso giù papà. I venghe padano, fa di gatta semana. Che galan coppe in mano, voglio non mi stessa. Ma non licenziato, sono tutta azzeccato. Televisore arrato, non posso giù papà. Tutta zicca mai fatica ta semana. Ma si le talamente vendi venghe patana. Vai girando cu gioia la sorda fra i puttana. Si capaci mi stressa cu tutto che sto male. A già spugnata puri ca la coppa in mano. Fama ne sente ma se ne parla rimane. Oggi è giornata i patimenti turmenta. Debita finanziamento pure po' mancato pana. Visto che fatica non ce ne sta oppure non te ne racchi cu ma chi t'ha licenziato. Non sta ti sta lì palle non te fa fa. Che la roba per cui già è surreale. Deformato, ma fino a mo t'ha sfruttata t'alienata. Pure un televisore ma già catarrata. Uda te che va già sempre addorsecato. Pure senza quella che faccio ma già impegnato. Allora sta ma sentisci in ma colla. Che tanta incapata ve che bolle mille bolle blu. Se tu carincare sempre addosso. E t'approfitta che diventa sempre più nervoso. E bisognoso fino a mio caso sposo. Tata capacca che fai perché sei generoso. Lassami sta fatta già la vita e finire. Mettere pure tu che già dura così. I venghe padano fa di gatta semana. Che galan coppe in mano. Voglio non mi stressa. Ma non licenziato sono tutta azzeccato. Televisore arrato non posso giù papà. I venghe padano fa di gatta semana. Che galan coppe in mano. Voglio non mi stressa. Ma non licenziato sono tutta azzeccato. Televisore arrato non posso giù papà. Era meglio se ti avessa conosciuta. Stevo buona con ma steva. Ma se ho vero che sta cosa ti è piaciuta, rima allora ma perché no? Se ti dico una cosa te ne futta, pare che ce l'hai con me. Oh no, che stavolta sono arrivata proprio a frutta, non te voglio più fare. Oh nonna mia, sai come ricevo, a te la cucina è meglio te. Non cavali, non vado soccata, e alla fine faccio pure spesa. Tu già ma straquato, tra futuro incerto, niente progetto e fatica mai pavato. È sempre più nu cazzenato, son i kill, cacciaro fondo con tutte e pocuno bruciato. In da sto posto ci sono nato, resporto più diffusi, tutte kill se piglia ammazzato. Ci fanno pure campionato, ma senza porte, senza campo e pure senza stadio. Sempre stessa merda in da radio, sempre stesso panni dall'armadio. Noi che stiamo sempre più allarmato, noi che campiamo un coppa giornato. Noi che pavamo a pozione al lato. Capesse ma fa, compa, piglia un ribotto. In un eco mi hanno fotto, siamo un in continua lotto. Esistono rimedi per tutto, tranne pa' morto. O bene quanto male che sta cascia rende forte. I venghe padano, fa di gatta semana. Che galan coppe in mano, voglio non mi stessa. Ma non licenziato, sono tutta azzeccato. Televisore arrato, non posso giù papà. I venghe padano, fa di gatta semana. Che galan coppe in mano, voglio non mi stessa. Ma non licenziato, sono tutta azzeccato. Televisore arrato, non posso giù papà. Non posso giù papà. Non posso giù papà.